difficile dimenticare un amico scomparso. Il suo ricordo ti coglie all'improvviso durante il giorno. Sia che tu stia camminando, sia guidando, leggendo o che tu stia riposando. Non sai spiegarti il perché, ma molto probabilmente ti manca qualcosa nell'abbondante banchetto della vita. Un qualcosa che fa parte di te. Non a caso un amico è definito un altro te stesso. Così è stato per me, Silvano, un uomo che ha consacrato la vita a predicare l'Evangelo nelle colline modenesi, dove il lavoro era veramente duro con viaggi su viaggi e persone diffidenti per cultura. E, morto causa un tumore. Prima di terminare la sua vita terrena mi chiamò al suo capezzale e mi confidò. Ho fatto un sogno. Mi trovavo in cielo. Era un luogo pieno di luce con una musica meravigliosa. Mentre camminavo lungo una strada, in fondo ad una curva vidi qualcuno e gli chiesi se c'era un posto anche per me. Certo, meno mi rispose, meno eccolo, meno e, così dicendo, aprì una porta alle mie spalle e vidi una stanza tutta illuminata di una luce indescrivibile ripiena di una musica celestiale. Ero tutto contento, ma poco dopo gli chiesi, ma ci è un posto anche per Ellero? Certo, rispose sempre questa persona. E, aprendo una porta davanti a noi, mi fece vedere una stanza anch'essa piena di luce e di musica. Allora ero ancora più contento. Questo episodio descrive bene il carattere di Silvano. Amava l'amicizia. Si era convertito in un periodo in cui vi era una forte opposizione da parte del cattolicesimo. Chi diventava protestante era deriso, schernito, calunniato, ostacolato nella vita sociale e spirituale da parte delle autorità sia religiose sia civili. L'amicizia in quel periodo era perciò un bisogno fondamentale in un contesto del genere, mentre oggi, all'inizio del XXI secolo, i credenti non sono tanto ostacolati nell'espressione della loro fede. Si cerca sempre ciò che non si ha, questo è evidente. Quando andavo con lui nell'Appennino modenese a visitare sia i credenti sia persone interessate al Vangelo, non contavo le soste fuori programma di persone che lo fermavano e lo salutavano calorosamente. Forse erano schivi a dover cambiare la loro religione, ma non lo erano nei riguardi della persona di Silvano. Era molto conosciuto e l'affluenza di tanta gente al suo funerale ne è stata una prova. Chi era Silvano? Silvano era nato il 13 agosto 1930 da famiglia cattolica e nel 1943 che la sua famiglia entra in contatto con Ettore Barozzini, rimpatriato dalla Francia a motivo della guerra. Questo fratello si era convertito in Francia dove faceva parte della chiesa evangelica di Calabocca. Per curiosità e per amicizia verso Ettore, il padre di Silvano aprì la sua casa per delle riunioni, che ebbero luogo fino alla fine della guerra. In quel tempo era proibita la lettura della Bibbia. Chi la leggeva poteva essere scomunicato dalla religione cattolica. In questo contesto si convertirono il padre, la madre, Silvano e suo fratello Giuseppe. Dopo il servizio militare, Silvano continuò ad aiutare il padre, agricoltore, il quale doveva sostenere la numerosa famiglia composta di 12 figli nati rispettivamente dai suoi 4 matrimoni. Nel 1960, durante un convegno a Firenze, Silvano consacrò la sua vita a Cristo. Poco dopo partì per andare a lavorare in Svizzera, dove fu ricevuto come un figlio dalla famiglia Hugli a Rennes, vicino a Losanna. Nel suo tempo libero, con il fratello svizzero Claude Chollet, viaggiava ed evangelizzava i suoi compatrioti. A quell'epoca conobbe Liliana alla scuola biblica di Emmaus e si fidanzarono. Nel 1962 Silvano ritorna in Italia per occuparsi di un piccolo gruppo nascente a Pavullo. Nel dicembre del 1962 si sposò stabilendosi a Vignola, dove rimase pochi mesi fino alla nascita del primo figlio Stefano. Nel settembre 1963. In ottobre si stabilisce a Pavullo, dove si trova una coppia missionaria canadese, Abramo e Marion Rau. Questa è stata la testimonianza rilasciata in seguito da Abramo. Ripensando al nostro passato e al lavoro svolto insieme nell'opera del Signore, non posso che ringraziare il nostro Dio. Ci sono tanti bei ricordi, tante storie di grandi vittorie nell'opera. La vita del nostro caro Silvano non è stata vissuta invano, perché l'opera del Signore nel Modenese porta la sua firma, la sua impronta. Gentilezza, fedeltà, fede, amore, gioia, verità, sono tutte parole che vengono in mente ricordando Silvano. La grande messe che aspettava nell'opera arriverà. Il caro Silvano era un seminatore della buona novella. L'Appennino modenese ha avuto un pioniere nell'opera del Signore. Non si può ancora scrivere tutta la storia, tutto il frutto della semenza, perché non è ancora l'ora. Il frutto verrà poi. Oggi possiamo ringraziare il Signore per la vita, la fatica e la fedeltà di Silvano Casolari. Era un grande aiuto per me in quei primi anni. Ci capivamo senza riserva, c'era comunione in Cristo che non si può neanche descrivere. Era un fratello speciale, ideale, intimo. Anche da lontano ne sento la mancanza. Dopo quei pochi anni di lavoro in comune durante i quali nacque la seconda figlia, Lia, nel marzo 1966, arrivarono gli anni più duri del lavoro individuale, distribuzione di letteratura sulle piazze e nei mercati, le visite di casa in casa, il servizio nella chiesa di Pavullo, Maranello, Vignola. L'Appennino modenese costituisce circa la metà dell'area della provincia di Modena e Pavullo, trovandosi in centro, rimane un punto strategico. Le strade di montagna sono sempre pericolose, anche senza neve, si tratta di viaggiare ore e ore per fare anche solo una visita. All'inizio del 1992, un incidente stradale fermò Silvano per più di un anno. Nella primavera del 1994, gravi sintomi di sofferenze lo costrinsero a fare diversi accertamenti. Con varie degenze in ospedale, si rivelò la presenza di un tumore maligno all'uretere. Questo tempo di sofferenze sembrò molto lungo, ma veniva illuminato dalla presenza divina. Liliana e Silvano erano grandemente incoraggiati dalla parola di Dio per mezzo del sostegno della preghiera di tanti fratelli e sorelle in Cristo sparsi nel mondo intero. In seguito Silvano ebbe la visione di angeli presso il suo letto e il sogno del cielo aperto che confortò lui e sua moglie, aumentando il desiderio della casa del padre. Dove Silvano entrava qualche settimana più tardi, in quella stanza dell'ospedale si sentiva la presenza del Signore. Alla domanda dell'infermiera, che cosa vede Casolari? Silvano rispose, un scintillio meraviglioso. La notte prima del suo decesso aveva testimoniato del suo meraviglioso Salvatore ad un giovane medico. Sua moglie poté assisterlo fino all'ultimo respiro. Come ebbe a dire egli stesso più tardi, Silvano non era dotato di grandi qualità agli occhi degli altri, ma amava amichevolmente tutti i figli di Dio e soffriva per le varie divisioni. Il desiderio dell'amicizia lo faceva soffrire e forse anche per quello godeva con me un rapporto particolare. Un giorno caldo d'estate ho comprato un'anguria, sono andato a prendere Silvano e l'abbiamo mangiata in un prato al fresco. Come mi ha ringraziato, quante volte mi ha ricordato quell'episodio. L'amicizia di Silvano viene forse messa in evidenza come non mai da una lettera che ha scritto poco prima di morire nel gennaio 1996. Cari fratelli e sorelle, tutti amati in Cristo Gesù, ho in cuore di scrivere questa lettera a tutti coloro che mi conoscono di persona, rendendomi conto di non riuscire a scrivere a ciascuno. Individualmente ho pensato di inviare alcune copie di questa mia alle chiese della provincia di Modena, dove sono maggiormente conosciuto, con la preghiera che sia letta nelle comunità. Sono uno tra i primi convertiti all'Evangelo nella nostra provincia ancora in vita, dall'inizio della testimonianza della Chiesa evangelica, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sento dentro di me un peso che devo scaricare. Come molti di voi sanno, ho svolto per più di 30 anni il mio ministero nel visitare famiglie isolate di Pavullo. Date le mie infermità fisiche e la mia età avanzata, desidero chiedere perdono se, in qualche modo, non mi sono comportato bene con qualcuno di voi. Se vi fosse qualcuno fra voi che avesse qualche cosa, per piccola che sia, contro di me, gli sarei grato se volesse dirmelo, anche per telefono o per iscritto, come preferisce. Tornando al mio peso, devo confessarvi che una delle cose più difficili e a volte incomprensibili nel mio ministero è stato quello di vedere dei fratelli e delle sorelle, nati di nuovo come per grazia sono io, che si salutano appena e per qualche ragione umana, carnale direi, si dividono per non avere neanche più la gioia della comunione fraterna. Credo di parlare in un linguaggio non sconosciuto. Vorrei che ci potessimo rendere conto che dovremo comparire tutti davanti al Tribunale di Cristo, dove ci verrà chiesta ragione del nostro operato. 2 Corinzi 5.10. Una cara sorella, convertita da pochi anni, mi diceva: «Come mai vi sono divisioni fra i credenti al punto che, come Chiesa, arrivano a separarsi? Quando io incontro un credente mi sento tanto felice. Come si può rispondere a tale domanda senza avere il cuore pieno di amarezza? Per me è una vergogna. È come una macchia di sporcizia sul mio vestito. Non vedo con quale smacchiatore potrei toglierla, se non per un miracolo del Signore prima del suo imminente ritorno». Potrei citare numerosi versetti al riguardo, ma preferisco non farlo, perché so di rivolgermi a persone che conoscono la Bibbia anche meglio di me. Queste mie righe vogliono solo far riflettere. Se anche voi sentite quello che vi ho comunicato, non continuate a ignorarlo fino al punto di diventare insensibili. So di non essere uno scrittore e non lascerò dietro di me un'eredità letteraria. Vorrei piuttosto che voi mi ricordiate come Silvano, un fratello che amava tutti senza distinzione. Vogliate accettare e sopportare questo sfogo della mia sensibilità. Il vostro fratello, che vi ama in Cristo Gesù. Che lo spirito di questa lettera possa rimanere indelebilmente impresso nella mente, come lo è per me Silvano. Novembre 2009. Ellero.